Il titolo del podcast è Record Mondiali, il nome è il gruppo I Gattini Sportivi, il simbolo è un gattino che grida viva lo sport, l'argomento è lo sport e lo slogan è viva lo sport per divertirsi. Ciao, benvenuti al podcast Gattini Sportivi, che parla di sport per divertirsi. Siamo Joe, Sasa, Kaitan e Melis. Nell'episodio di oggi discuteremo di calcio. L'ospite di oggi sarà Palmer del Chelsea. Offriremo agli ascoltatori una sorpresa speciale. Stay tuned! Oggi racconteremo delle pallavoliste più famose in Italia, ma faremo domande a un altro pallavolista maschio. Palagomo è la giocatrice di pallavolo più forte in Italia. Eleonora Lobianchi è la seconda, e Francesca Puccini è la terza pallavolista, sempre italiana. L'intervistatrice sarà Sara Lutbeneduce, che intervisterà Kaitan Meriacre. Buongiorno a tutti. Cosa ti ha appassionato a fare questo sport? Buongiorno, le passo Sono la parola. molto allenata, In quanti giocatori si gioca? Ci sono il 3 contro 3, il 4 contro 4, il 6 contro 6. Quale parte del gioco ti piace di più? Mi piace di più il ruolo dell'attacco, perché liberi tutta la tua forza e cerchi di fare punto schiacciando fino alla tua più grande forza. Qual è l'obiettivo principale della pallavolo? Oltre a fare punto e di mandarla con una schiacciata, palleggio, bucket o qualsiasi cosa, cercando di far cadere la palla dentro. Siamo arrivati all'ultima domanda. Hai dei talenti nascosti? Sì, da un anno ho iniziato a suonare il piano e penso di essere bravo. Ci faresti sentire qualcosa? Con molto piacere.